Se nel mondo un giusto grida, il carnefice verrà. Chi sta zitto resta vivo, chi ha coraggio morirà. Chi sta zitto resta vivo, chi ha coraggio morirà. Nessuno l'ha conosciuto. Quando il destino ti è contro, chi corre a darti un aiuto? Quando il destino ti è contro, chi corre a darti un aiuto? Ha lavorato per tutti, ma per lui chi lavora, ora che è morto e sepolto, si può cantarne la gloria, si può perfino parlarne in qualche libro di storia. Diceva poche parole e la speranza nasceva. Per di cui passava un uomo, di lui la gente rideva. Ma cancellava il passato e nel futuro vedeva. Per di cui passava un uomo, la gente rideva. Libertà anche se tardi ci prometteva. Per di qui passava un uomo, di lui la gente rideva. Ma dopo che era passato, la nostra fede cresceva. Per di qui passava un uomo, di lui la gente rideva. Libertà anche se tardi ci prometteva. Se nel mondo un giusto grida, il carnefice verrà. Chi sta zitto resta vivo, chi ha coraggio morirà. Chi sta zitto resta vivo, chi ha coraggio morirà. Chi sta zitto resta vivo, chi ha coraggio morirà.